Excuse me, how long do I speak? 15, 20 minutes? 20 minutes? Also more, because so half. Maximum 20, 25 minutes, because yes. Of the translation takes double the time. Yeah, exactly. Yeah. We thought to organize in this way that at the beginning, just two words to explain, to introduce you and Carlo. Then Carlo speaks about it and you on the issue. Okay, good. And probably. Allora, lui è Omar Barghouti. We are the students which organized the meeting. Hi, good to meet you. Good morning. Carlo, do you know who's translating? I think Juan is too. Okay. Io pensavo molto, io solo due cose dicendo che sono organizzato. Siamo gli organizzatori, la sigla che diciamo. Sì, quella di studenti dell'università. There are some quotes. I'll make it not many because it will be more difficult for you to translate. But if I'm quoting anything, I'll put it here so that you can see it. Okay. Always from English. Yes. I'm thinking what I did with Martina yesterday is that some quotes are in the book. Yes. In Italian. Yeah, so some quotes are in the book. Do you remember? Okay. Maybe you know the book. And the quote was? There are some quotes, Ilan Pape, for example, in my text, my preface, 19. Okay. There's a quote, big quote by Ilan Pape. So instead of reading it in English, when I get to that quote, I'll say, okay, Ilan Pape said, and there's a, you do it in italic. If there is no translation, I can translate from the text directly. Sure, sure. Yes. This is the only one that's available in the book. The rest okay. I'll give you. Okay. One thing I have to warn you about is, in English there's the double meaning of just. I use this, just as in justice, or just as in only. Yeah. Just, so I use this, I play on this just once. Just in the sense of only. Only once. Wait for the approval. So you got a body foggy. So I was thinking of doing more or less the same as yesterday. Do you think it's good? Yeah. Any comments on yesterday? Anything that needs to be improved? Any problems in my presentation? No. So you felt it was okay. Because Martina is a very good translator. Martina is a very good translator, yeah, interpreter, so she understands exactly what I'm going to say. Allora, iniziamo questo incontro con Omar Barghouti. Omar Barghouti è un palestinese che vive a Ramallah, ha studiato diversi anni negli Stati Uniti ed è il fondatore della campagna per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni a Israele per il non rispetto del diritto internazionale. Sta facendo un giro in Italia, in diverse città, per approfondire questa tematica. Lui ha espresso sempre anche la volontà di poter discutere questo tema, che non è semplice, tutti sappiamo, anche con docenti, esponenti del mondo intellettuale, che pensano sia sbagliato, per esempio, interrompere delle relazioni con il mondo accademico israeliano e così via. E per cui lui sempre auspica che ci sia qualcuno con cui interloquire anche su questo terreno. Barghouti ha focalizzato il suo intervento proprio sulla questione boicottaggio, disinvestimento e così via rispetto al mondo accademico, perché anche il mondo accademico, secondo lui, secondo molti palestinesi, è pesantemente implicato nella pianificazione dell'occupazione e quindi nella violazione delle leggi internazionali, del diritto internazionale riguardo alla popolazione palestinese dei territori occupati. Questo argomento è sempre più di attualità, tanto più che pochi giorni fa Israele, con un voto unanime, è stato ammesso tra i 31 paesi più ricchi del mondo, nell'OCSE. Per questa votazione serve l'unanimità e in effetti anche paesi che fino a poche settimane fa si erano espresse in modo molto critico rispetto al comportamento di Israele dopo la guerra di Gaza, dopo il rapporto Goldstein che ha accusato il governo israeliano di crimini di guerra, addirittura, appunto, che si sperava che non si potesse arrivare all'unanimità per l'entrata di Israele nell'OCSE. Al contrario, invece, proprio l'altro ieri c'è stato questo voto unanime, per cui Israele dovrebbe essere il 32esimo paese più ricco del mondo all'interno di questo consesso. Per cui diciamo, la tematica è all'ordine del giorno anche in questo, per questi motivi. Per cui Omar entrerà nel merito di queste tematiche. Carlo Tagliacozzo, lui invece è curatore del libro che vedete là, che è proprio una raccolta, con lui sarà il primo ad intervenire e spiegherà che cos'è questo libro e perché è stato fatto, una raccolta di scritti di diversi autori, tra cui Omar, sempre sulla questione del boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Lui, Federico, farà da traduttore ed è membro anche lui di Action for Peace, che è l'organizzazione che insieme un coordinamento di diverse associazioni che insieme agli studenti dell'università hanno organizzato questa iniziativa. A Milano c'è una rete di varie associazioni che stanno lavorando su questa questione del boicottaggio, disinvestimenti e sanzioni, ed è anche per questo che facciamo questo tipo di iniziativa a Milano. Non porto via più tempo e lascio la parola a Carlo, sì, che introduce il Ma forse libro. Non c'è bisogno del microfono. Sì, Non c'è bisogno. Grazie Roberto. Sono qui per presentare questo volume dal titolo Pianificare l'oppressione e le complicità dell'Accademia Israeliana. Sono uno dei curatori, non sono professore universitario. Sono un semplice sono uno dei fondatori e uno dei redattori del social network Zeitun.ning.com. Questo volume è, appunto, ha come sottotitolo Le complicità dell'Accademia Israeliana. E proprio in questi giorni è uscito in rete un comunicato stampa e poi anche ieri sul Manifesto c'era un articolo su un'indagine che è stata compiuta in tre università in Svezia, in Italia, a Roma e a Beirut, su reperti forniti dall'ospedale di Shifa di Gaza, sulle ferite sconosciute che vittime delle incursioni armate, dei bombardamenti o delle incursioni armate israeliane a Gaza, sia nel 2006 che nell'operazione Piombo Fuso del 2008, avevano provocato su questi corpi. Voi mi pare di capire che siamo in un uditorio cioè che già conosce molte cose e della situazione del conflitto, e quindi queste armi non convenzionali, chiamiamole non convenzionali, queste armi sconosciute, perché provocano amputazioni, carbonizzazioni e via di questo passo, provocano, secondo le ricerche, i risultati di queste ricerche, di queste tre università, anche delle hanno trovato tantissimi elementi, metalli pesanti, eccetera, dall'uranio, eccetera, piombo, alluminio, titanio, insomma, non vado avanti. C'è un articolo ieri sul Manifesto di ieri di Emanuele Giordana che spiega molto bene i risultati di questa ricerca, che è stata coordinata dal gruppo New Weapons Research Group, di cui è portavoce la Paola Manduca. E allora, tutte queste c'è il rischio di mutazioni genetiche, di ovviamente di cancro e cose di questo genere su chi è stato direttamente colpito, ma anche le inalazioni di chi non è stato direttamente colpito potrebbero provocare delle malformazioni, Allora, queste sono armi non convenzionali, non sono armi in cui c'è una regolamentazione del diritto internazionale, sono armi chiaramente che sono il frutto di una ricerca. E questa ricerca da dove si fanno? Si fanno in quei luoghi che sono appunto i luoghi dell'Accademia Israeliana. Non abbiamo fatto altro che scegliere una serie di materiali che sono già stati pubblicati, quindi in inglese. Abbiamo pensato che fosse importante che anche il pubblico italiano lo venisse a conoscenza, e il clou di questo libro è basato proprio sulla documentazione delle complicità dell'Accademia israeliana con il sistema di controllo, il sistema militare soprattutto dell'occupazione. Le due ricerche fondamentali sono fatte, uno da un esponente dell'Alternative Information Center, un israeliano di Gerusalemme, Keller, Uri Keller, non Adam Keller, Uri Keller, ed è questa diciamo così, la ricerca più organica, diciamo così, su tutte le istituti universitari israeliani. L'altra ricerca invece specifica su una sola università, che è quella della Tel Aviv, l'Università di Tel Aviv, la Tel Aviv University, la cosiddetta TAU, fatto da un gruppo di ricercatori, questa volta della società palestinese della SOAS, che è questa università londinese che studia fa ricerca sull'Oriente e il Medio Oriente. Sia nell'uno che nell'altro ci sono delle documentazioni, intanto ci sono delle premesse che, siccome c'è un grosso finanziamento e partecipazione di società private, molte di questi intrecci, di queste connessioni tra Accademia israeliana, Accademie e società private non vengono a galla, non sono conosciuti. Quindi loro stessi sono un po' sono consapevoli di che questo è un primo approccio, un primo tentativo di documentazione delle connessioni. Comunque questo primo tentativo, a mio parere, è più che sufficiente, no? Per dare un giudizio sulla complicità, diciamo così, dell'Accademia, tanto per documentare, insomma, la principale università, la Technion, è molto molto coinvolta nella ricerca proprio militare, e la review, questa rivista trimestrale della Technion University, ha pubblicato i vari programmi dell'università. Qui sono descritti, io ve ne leggo alcuni, tanto per farvi capire il tipo di ricerca in cui sono coinvolti. Tra i vari programmi, la review celebrava una ricerca sui nuovi esplosivi condotti dal Dipartimento di Chimica Organica, una ricerca sui missili di difesa elettro-ottici presso la Facoltà di Ingegneria, lo sviluppo di sistemi di difesa aerea con laser e radar, tecniche sperimentali di addestramento di uccelli e cani, sviluppate dal Centro per il Comportamento Animale applicato per obiettivi di sicurezza, innovazioni per la sicurezza nell'ambito delle nanotecnologie. Come vedete, c'è un elenco che va avanti, tecniche algoritmiche, eccetera. Io poi non sono uno scienziato, quindi queste cose le leggo, mi entro e mi esco. Però questo è soltanto un esempio, e la cosa anche che a noi fa una certa impressione, almeno a me ha fatto una certa impressione, è che nei consigli direttivi di queste università siedono i massimi dirigenti delle società produttrici di armi, la famosa società Elbit e la Rafael. Hanno posti nei consigli, diciamo, chiamiamoli consigli di amministrazione delle università, della Technion oppure della Tel Aviv University oppure della Bar Ilan. La Bar Ilan University è colpevole, nel senso che ha un college che adesso Barack ha trasformato in università che è situato nei territori occupati. La Tel Aviv University sta anche su terreni che prima erano palestinesi, che sono stati rasi al suolo e su cui è stata costruita l'università. E poi c'è tutto l'aspetto di documentazione della discriminazione degli studenti palestinesi che frequentano, oppure del fatto che se ce ne sono troppi si può chiudere l'iscrizione, perché questo mette in discussione la natura, diciamo così, ebraica dell'università. Questo è il nucleo centrale, però prima del libro, diciamo, la documentazione che secondo il nostro parere era da immediatamente portare a conoscenza del pubblico che non legge in lingua inglese, eccetera. Però per fare questo poi noi abbiamo pensato, questo libro l'abbiamo pensato proprio come che servisse come uno strumento di discussione, riflessione, analisi sul problema appunto del boicottaggio accademico, visto che non è inutile nasconderci, nelle università italiane, anche se io non sono uno di questi, non appartengo all'università, nelle università italiane il discorso del boicottaggio è un discorso tabù, no? Perché immediatamente si dice va contro la libertà di ricerca. Allora, noi per stimolare questo, iniziare a parlare di questo problema del boicottaggio, senza fare grossi proclami, senza fare grossi che lasciano, secondo me, il tempo che trova, è importante invece documentare, portare, confrontarsi, arrivare a una discussione seria, per poi eventualmente poi sperare in iniziative, in azioni. Allora, all'inizio c'è una introduzione, a prefazione di Massimo Zucchetti, che proprio è una testimonianza dell'incertezza, aderire o non aderire al boicottaggio. Era molto incerto se fare questa prefazione, in quanto molto titubante. Poi Zucchetti è una persona estremamente intelligente e sensibile, si è andata a documentare e ha accettato di fare l'introduzione. Abbiamo chiesto a Omar Barghouti, in quanto fondatore del PACPI e esponente del PACPI, di dare un contributo, proprio perché questo libro potesse avere anche, diciamo così, una sua autorevolezza nel campo della discussione. E abbiamo voluto inserire un quadro di analisi del sistema di controllo fatto da Israele sui territori, grazie ai contributi di due esponenti estremamente validi, quali John Dugard, che è stato un rapporteur, adesso è Falk, Barghouti citerà un suo parere sulla situazione di Gaza. John Dugard, essendo sudafricano, entrambi sono sudafricani, John Dugard e la Virginia Tilly, che ha coordinato una monumentale ricerca sul problema dell'occupazione, colonialismo, apartheid, facendo un raffronto con quello sudafricano. Adesso io non posso entrare nel merito di questo, però il giudizio di tutte e due è un giudizio estremamente chiaro, un giudizio sul fatto che il sistema di controllo nei territori è un sistema di apartheid, di colonialismo e di ovviamente di occupazione, molto più severa che in Sudafrica, molto più severa che in Sudafrica. Cioè che noi sappiamo che se la situazione in Sudafrica ha portato a una iniziativa generalizzata di boicottaggio, generalizzata e completa di boicottaggio, sia economica, sia accademica, sia culturale. Non so, non mi ricordo che le partite di tennis di Coppa Davis alla Sudafrica non poteva partecipare, le veniva impedito la partecipazione in quanto la squadra era di un paese dove si praticava l'apartheid. Questo giudizio, secondo me, questo è molto importante da portare all'attenzione, perché se un docente, fa riferimento alla mancanza di, se il boicottaggio colpisce la libertà di ricerca, però ci sono dei principi morali, dei principi fondamentali che fanno sì che non c'è mai stato da parte dell'Accademia israeliana una condanna sulle violazioni e sulla repressione della libertà di ricerca palestinese nei territori, nelle università palestinesi. E anche qui in questo libro c'è una documentazione fatta da ricercatrici delle università Birzeit e poi c'è un fact sheet, un report dell'università Birzeit sulla documentazione, sulla repressione, sul diritto negato all'istruzione grazie al fatto che si trovano sotto occupazione. Chiudo con citare lo splendido scritto di Tania Reinhardt, una israeliana che purtroppo è mancata un paio d'anni fa, in una polemica con un suo collega che contrario al boicottaggio, lei nel 2002 fu la prima israeliana a chiedere il boicottaggio accademico. Quindi e fece questo articolo su Haaretz nel 2002 in polemica col suo collega amico Kemmerling, Baruch Kemmerling, per controargomentare le obiezioni al boicottaggio accademico. E quindi, se voi volete sapere quali sono le obiezioni e quali sono le controobiezioni, adesso io non mi posso addentrare su questo, deve parlare Barghouti, giustamente. Se volete sapere quali sono le obiezioni, le controobiezioni al boicottaggio accademico, leggetevi questo scritto di questo articolo della Tania Reinhardt, perché lo espone in maniera estremamente lucida, estremamente valida. E quindi, ovviamente, questo è stato un discorso promozionale, lì c'è il banchetto, e ve lo vendiamo a 8 euro. Grazie. Good morning, I'll speak in English and there will be translation, so don't worry. Buongiorno, parlerò inglese, ma non preoccupatevi, ci sarà la traduzione. I thank the organizers for inviting me to Milano to speak to you, and I hope I'll try to put some context to why we're calling for an academic boycott of Israel. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato a questa riunione e cercherò di descrivere il contesto entro cui si colloca questa operazione. I know I'm speaking at a time where you're having serious difficulties in Italy. Social movements are growing again, which is refreshing. You're having massive problems with the neoliberal governments you've had for several years. And it's difficult to see the connection. Why should you care about Palestinian rights when you have so many problems of your own? So che qui in Italia voi avete una situazione molto difficile. Ci sono movimenti sociali che lottano contro il governo liberista. Quindi è difficile magari capire quali sono le connessioni tra la situazione in Italia e la situazione in Palestina. Quindi perché mai voi dovreste occuparvi della questione palestinese? In this globalized world, things are very connected. A lot of the disintegration of the social services, health services, education in this country are very connected to militarization and to very savage globalization that's taking place, And Israel is at the very center of this savage globalization. In questa epoca di globalizzazione tutti i problemi sono strettamente connessi. La disintegrazione dei servizi sociali è strettamente connessa al problema della militarizzazione selvaggia e Israele è al centro di questa operazione. So we have almost two choices. It's not absolute. There is a lot of gray area in between, but a choice towards militarization and total domination of the military industrial complex, which is globalized, or development that takes care of human needs, social needs, workers' needs, women's needs, students' needs, and so on. Quindi, grosso modo, abbiamo una scelta fra due situazioni estreme. Naturalmente ci sono anche delle posizioni intermedie, però i due poli estremi sono, da un lato, la totale militarizzazione, cioè la totale dominazione del militare, e all'estremo opposto lo sviluppo umano che tiene conto dei bisogni delle donne, degli studenti, dei giovani e così via. So why should Italians care? First, as humans, there's this basic moral obligation to fight oppression anywhere. Allora, perché gli italiani dovrebbero occuparsene? Beh, anzitutto come esseri umani, perché c'è un'obbligazione morale. But the moral obligation is even more intense, stronger, because your government is complicit in maintaining Israel's system of occupation and apartheid that's oppressing us. So you have a direct responsibility towards the Palestinian people. Ma l'obbligazione morale non è tutto, perché nel caso dell'Italia c'è una complicità diretta del governo italiano nei confronti della apartheid, della occupazione che Israele compie. Quindi c'è una responsabilità diretta nostra nei confronti della situazione in Palestina. And this is particularly true because now we're not just facing occupation and apartheid, we're facing slow genocide in Gaza. Slow genocide. And that's according to top international law experts, such as Professor Richard Folk, who's the current UN Rapporteur for Human Rights. E questo è particolarmente vero perché in questo momento noi non stiamo soltanto affrontando una situazione di occupazione e di apartheid, ma stiamo affrontando una situazione di lento genocidio a Gaza. Lento genocidio che è testimoniato dal rapporto di Folk, che è il responsabile delle Nazioni Unite, che ha stilato il rapporto su Gaza. So a main task for us in this room, students, intellectuals, academics, activists, is decolonizing the mind, and I'll explain why. Allora, il principale compito per noi qui presenti, per studenti, per insegnanti universitari, è decolonizzare la mente, nel senso che adesso vado a illustrare. The famous African Kenyan writer Ngugi wa Thiong'o published a book called Decolonizing the Mind, and I'll read you a couple of lines from this book. Il famoso scrittore africano Ngugi ha scritto un libro, questo che si intitola Decolonizzare la mente, e vi leggerò un brano da questo libro. Ngugi says, quote, "The biggest weapon wielded and actually daily unleashed by imperialism against that collective defiance of the oppressed is the cultural bomb." Allora, la più grande arma che viene utilizzata di fatto giornalmente, che viene sguinzagliata dall'imperialismo contro la resistenza collettiva, è la bomba culturale. The effect of a cultural bomb, he says, is to annihilate a people's belief in their names, in their languages, in their environment, in their heritage of struggle, in their unity, in their capacities, and ultimately in themselves. L'effetto di una bomba culturale è di annichilare il credo di un popolo nei propri nomi, nella propria lingua, nel proprio ambiente, nella propria eredità di battaglia, nella propria unità, nelle proprie capacità e, in ultima analisi, in se stessi. It makes them see their past as one wasteland of non-achievement, and it makes them want to distance themselves from that wasteland. Li fa vedere questo cultural bomb, questa bomba culturale, fa vedere il loro passato come una terra persa, di un non successo, di un non risultato, e fa in modo che essi vogliano prendere le distanze da questa terra persa. So since Israel's establishment in 1948 on the ruins of Palestinian society, what we call the Nakba, the ethnic cleansing of more than 800,000 Palestinians, it has always worked in parallel to colonize the land, ethnically cleansing the indigenous Palestinians, and to colonize the mind. Così, fin dal 1948, l'anno di quella che noi chiamiamo la Nakba, cioè la catastrofe, la pulizia etnica, la cacciata di 800.000 palestinesi dalla loro terra, Israele ha sempre lavorato su due piani. Da un lato quello della colonizzazione strettamente, in senso stretto, vale a dire la pulizia etnica, e dall'altra parte quell'altro tipo di colonizzazione che è la colonizzazione delle menti. The Israeli Academy, from the beginning, played a role in both tracks, colonizing the land, colonizing the mind. L'Accademia israeliana ha da sempre giocato entrambe le partite, quella della colonizzazione della terra e della colonizzazione delle menti. Just very recently, it was revealed by an Israeli researcher at Ben Gurion University that in the years following the Nakba, after 1948, Israel plundered, stole, and destroyed tens of thousands of Palestinian books in those few years. Un ricercatore israeliano della Università di Ben Gurion ha mostrato come negli anni dopo il 48 gli israeliani abbiano di fatto distrutto decine di migliaia di libri palestinesi. The idea, according to this researcher, was Israel destroyed, that's a quote, Israel destroyed the Palestinian books in the framework of its plan to Judaize the country, to make it Jewish, and cut off its Arab residents from their nation and culture. E questa è una citazione. Israele ha distrutto questi libri palestinesi nell'ambito di un progetto, il progetto di giudaizzare il paese e di staccare i residenti arabi dalla loro nazione e dalla loro cultura. Many of the stolen books are sitting today in the libraries of the top Israeli universities. Molti libri palestinesi che sono stati rubati si trovano attualmente nelle librerie delle università israeliane. Other than this, since then, Israel has targeted Palestinian education very deliberately and very systematically. E oltre a questo, Israele ha bersagliato la libertà di istruzione palestinese in modo molto sistematico. And for example, After the beginning of the first Intifada, the Palestinian popular protest against the Israeli occupation in 1987, just in February 1988, a few months after the first Intifada started, Israel shut down all 6 Palestinian universities, 13 colleges, and soon after it shut down all 1,194 schools. Per esempio, subito dopo l'inizio della prima intifada, nel febbraio dell'87, Israele chiuse 6 università palestinesi, chiuse 13 collegi e 1194 scuole. A year after that, excuse me, a year after that, Israel closed all kindergartens in the occupied territories. All kindergartens were closed, obviously for security reasons. Un anno dopo, Israele ha chiuso tutte le scuole per l'infanzia, tutti quanti gli asili, ovviamente per motivi di sicurezza. For 4 years, Beer Zeit University, the leading university in the occupied territories, and other universities were closed, and we did not hear much protest from Western academics then about academic freedom. Per 4 anni, dopo questi fatti, l'università di Beer Zeit fu chiusa da Israele e noi non abbiamo sentito nessuna protesta contro la libertà accademica in quella circostanza. Palestinian education was criminalized, literally. If a child is found holding a textbook, he or she goes to jail. Ovviamente la cultura, l'Accademia palestinese fu criminalizzata e se una studentessa palestinese veniva trovata magari con qualche libro in mano veniva portato in galera. So Palestinian educators had to teach their students, whether university or high school or whatever, in churches, in mosques, underground, in houses, away from the army's eyes, because it was illegal to teach, illegal to learn, literally illegal. E così i palestinesi hanno dovuto continuare a trasmettere la cultura in altri luoghi, nelle chiese, nelle moschee, nelle case, in posti che fossero lontani dagli occhi dell'esercito israeliano, perché insegnare era letteralmente considerato illegale. Fast forward to the future, because those, believe it or not, were the good old days when the occupation was very nice compared to what we have now. E questo, credetelo o no, si riferisce a il bel tempo andato, perché questi erano bei tempi rispetto a quello che succede oggi. I'll give a very important example from popular Israeli culture today about the prevalent level of racism. Vi darò un esempio di quello che è il razzismo diffuso in Israele. Israeli army platoons, when they graduate their army courses, they take pride and compete against each other in designing special t-shirts that all of them wear in social life, at home, everywhere. And I'll show you some of those latest designs. Allora, quando i soldati israeliani diventano graduati, disegnano delle camicette alla fine di questi corsi e adesso io vi mostrerò alcuni dei disegni che hanno pensato per queste t-shirt, per queste camicette. A sharpshooter's t-shirt from the Givati Brigade's Shaked Battalion. This was reported in Haaretz, a leading Israeli newspaper. This t-shirt shows a pregnant Palestinian woman with a bullseye, you know, a bullseye. You know what a bullseye is when you cross, when you want to shoot someone? With a bullseye on her belly with the slogan in English, not in Hebrew, in English. One shot, two kills. Allora, per esempio, c'è una maglietta in cui c'è, è raffigurata una donna incinta con un simbolo di bersaglio sul grembo e sotto c'è la scritta in inglese, non in ebraico, un colpo, due vittime. Many t-shirts showed destroyed mosques. Ci sono magliette che mostrano delle moschee distrutte. Very Islamophobic themes were very popular in those t-shirts. Molti temi islamofobi erano presenti in queste magliette. To Palestinian researchers like myself, this resembles very closely Nazi cartoons against the Jews in the 1930s. E per un ricercatore come me, questo ricorda l'atteggiamento degli anni 30. Another t-shirt shows a Golani Brigade soldier raping a young Palestinian girl. And underneath the slogan says, "No virgins, no terror attacks." Allora, un'altra maglietta della brigata israeliana Golani mostra una scena di violenza su una donna palestinese. Sotto c'è la scritta: se non ci sono niente vergini, niente attacchi suicidi. So why is this important? Isn't it a fringe phenomenon? It isn't a fringe phenomenon. No, I'm asking. Yeah. Allora, questo è importante. Cioè, io mi chiedo, è una domanda, è questo un fenomeno trascurabile, collaterale? In fact, no, because in Israel, unlike many countries, the army is a popular army. Every Israeli man and woman is required to serve in the army, with some exceptions. In effetti, no, perché l'esercito israeliano, in effetti, è un esercito di popolo, un esercito popolare, cioè tutti gli uomini e le donne israeliane devono fare parte dell'esercito. So the Israeli army has always been considered by Israeli researchers as a microcosm of Israeli society that is very representative of Israeli views and mentality. Così, per questo motivo, l'esercito israeliano è sempre stato considerato come un microcosmo che ben rappresenta la società israeliana. An Israeli sociologist, Dr. Orna Sasson Levy of Bar-Ilan University, reflected on those t-shirt designs, saying, quote, "This is a phenomenon that's a part of a radicalization process that the entire country is undergoing, and the soldiers are at its forefront." Il sociologo israeliano Orna Sasson Levy dell'Università Bar-Ilan. Israeliana. It's a woman. Ah, israeliana, la sociologa Sasson Levy, scusate, dell'Università Bar-Ilan, a proposito di questo fenomeno, ha detto che esso è parte di un processo di radicalizzazione che l'intero paese sta attraversando. E i soldati di questo processo sono l'avanguardia. She says, "There's a perception that the Palestinian is not a person, a human being entitled to basic rights, and therefore anything may be done to him." C'è la percezione che il palestinese non sia una persona, un essere umano, titolare di diritti di base, e quindi qualunque cosa si può fare. Therefore, we saw Israeli war crimes in Gaza that I'm sure many of you read about. E per questo abbiamo visto i crimini israeliani a Gaza, che tutti voi conoscete. So you prepare people to think of Palestinians as lesser humans, if human at all, maybe non-humans, and then you commit the massacre of Gaza so that people don't worry. You know, you're killing flies, it doesn't matter. Così si preparano gli israeliani a pensare ai palestinesi come a degli esseri umani inferiori, se addirittura esseri, e in questo modo si prepara a compiere un massacro. So, I'll read one example of testimonies from Israeli soldiers who served in the army during the Gaza massacre. Vi leggerò una delle testimonianze di soldati israeliani a proposito del massacro di Gaza. This was in an interview that was reported in Haaretz newspaper. Questa è in una intervista riportata dal giornale israeliano Haaretz. So, the soldier says, quote, "One of our officers, a company commander, saw someone coming on some road, a woman, an old woman. She was walking along pretty far away, but close enough so you could take her out, shoot her. If she was suspicious, not suspicious, the soldier says, I don't know. In the end, the commander sent people up to the roof to take out the woman, and so they did." Allora, uno degli ufficiali, un comandante di una compagnia, vide qualcuno che stava camminando sulla strada, una donna, una vecchia donna. Stava camminando abbastanza lontano, ma sufficientemente vicina perché le si potesse sparare. Se fosse da considerarsi un tipo sospetto oppure no, non lo so. Ma alla fine questo comandante mandò delle persone sul tetto per spararle con delle armi. So the interviewer asks the soldier, "I don't understand. Why did he shoot her? I mean, he saw her as an old woman that's unarmed. Why did he shoot her?" Allora l'intervistatore ha detto, "Ma non capisco, ma perché avete sparato se questa era una donna che sembrava non pericolosa, senza armi, disarmata?" So the soldier answers, quote, "That's what is so nice, supposedly, about Gaza. You see a person on a road, walking along a path, he doesn't have to be with a weapon, you don't have to identify him with anything, and you can just shoot him." C'è questo di bello per quanto riguarda Gaza. Tu vedi una persona su una strada che cammina lungo una strada, non c'è bisogno che abbia un'arma oppure no, non c'è il bisogno di identificarla in nessun modo, tu puoi semplicemente sparargli. Gideon Levy, an Israeli journalist who writes in Haaretz, reflects on this phenomenon of dehumanizing the Palestinians, saying, quote, "To do this without any unnecessary moral qualms, we have trained our soldiers to think that the lives and property of Palestinians have no value whatsoever. It's part of a process of dehumanization." Il giornalista israeliano Gideon Levy, che scrive sul giornale Haaretz, dice, citazione, "To do this. Per fare tutto questo senza alcuna remora morale, noi abbiamo addestrato i nostri soldati a pensare che la vita e le proprietà dei palestinesi non hanno alcun valore. Questo è parte di un processo di disumanizzazione. And therefore we had the Gaza massacre where more than 1400 people, Palestinians, were killed, predominantly civilians, and massive infrastructure destruction, including tens of schools, mosques, homes, and factories, agricultural lands, and so on. Ed è stato in questo modo che noi abbiamo avuto il massacro di Gaza, in cui sono morte più di 1400 persone, prevalentemente civili, e sono state distrutte decine di infrastrutture, case, moschee, scuole, fabbriche, campi coltivati, eccetera. So the UN report on this war in Gaza, the war on Gaza, the Goldstone report, had this very interesting conclusion. It's a 500 plus page report, but I'll read just one line that captures the conclusion. Il rapporto delle Nazioni Unite su Gaza, il cosiddetto rapporto Goldstone, riporta un pezzo che ora leggo. Il rapporto è costituito da centinaia di pagine, ma ovviamente io vi leggo una citazione. And for those who don't know, Judge Goldstone is South African, he's Jewish, and he's a Zionist. Per coloro che eventualmente non lo sapessero, Goldstone è sudafricano, ebreo e sionista. In the report, the conclusion, he says, the Israeli operations were carefully planned, in all their phases, as a deliberately disproportionate attack designed to punish, humiliate, and terrorize a civilian population. Citazione da Goldstone: le operazioni israeliane sono state accuratamente pianificate in tutte le loro fasi come un attacco deliberatamente sproporzionato con l'intento di punire, umiliare e terrorizzare una popolazione civile, di diminuire radicalmente la sua capacità economica. Allora, no, la citazione era finita, scusa. It's too long. sarebbe troppo lungo. One of the direct effects of Gaza's the siege of Gaza and the war on Gaza, the massacre, has been the destruction of the environment and the water resources. Uno degli effetti dell'attacco a Gaza, uno degli effetti dell'assedio, è la distruzione dell'ambiente a Gaza. So what 1.5 million Palestinians are facing in Gaza are slow genocide. You don't need, as Sholamit Aloni, a former Israeli minister of education, said, you don't need crematoria and gas chambers to commit genocide. There are many ways of doing so. Così il 1.500.000 palestinesi che si trovano a Gaza sono vittime di un lento genocidio. Come diceva Shalita Amon, non c'è bisogno camere a gas, di lager per perpetrare un genocidio. So I'll just give one example what I mean by this, and we're using the UN definition of genocide, not a personal definition. Vi darò un esempio citandovi quella che è la definizione di genocidio delle Nazioni Unite, non una definizione personale. 90-95% of the water supply in Gaza has been contaminated through the destruction and is unfit for human consumption. Dal 90-99% dell'acqua a Gaza è contaminata ed è inadatta all'uso per le persone. This was revealed in an Amnesty International report that was published in October 2009. Questo è quanto viene sostenuto in un rapporto di Amnesty International dell'ottobre del 2009. Another aspect of this that came out in the Amnesty International report is a new phenomenon, a blood disorder that affects Palestinian babies in Gaza, which Amnesty calls the blue baby syndrome, and I'll explain a bit about it. Un altro aspetto che viene messo in luce dal rapporto di Amnesty è una malformazione che un effetto che colpisce i bambini, che viene chiamato la sindrome blu, e vi spiego in che cosa consiste. So many babies in Gaza are now born with blue hands, blue feet, blue around the mouth, or the entire body is blue due to the very high level of nitrate in the water supply. Molti bambini a Gaza nascono con le mani blu, i piedi blu, le altre parti del corpo blu, addirittura l'intero corpo blu, a causa dell'alta percentuale di nitrati nell'acqua di Gaza. This disorder, this blood disorder, has a scientific name. It's called methemoglobinemia. It's a long name, but it's a disorder of the blood system. Questa malattia, diciamo, questa malformazione legata al sangue è una malattia del sangue che ha un nome che non saprei tradurre, cos'è? Metemoglobinemia. Metemoglobinemia. It doesn't matter. Allora, va bene. Metemoglobinemia. Okay. Una malattia del sangue, insomma. Some of the symptoms are convulsions, diarrhea, respiratory problems, and in certain levels of nitrate contamination, even death. Allora, ci sono dei sintomi collaterali che sono svenire, avere la diarrea, e nei casi più gravi addirittura può portare alla morte. Okay, so this can make the case for BDS, for boycott, divestment and sanctions against Israel. But why the academy? Why an academic boycott? Bene, questo può essere un buon motivo per motivare iniziative di boicottaggio, di disinvestimenti e di sanzioni nei confronti di Israele. Ma perché mai il boicottaggio accademico? Cosa c'entra il boicottaggio accademico? I remind us all that in the South African anti-apartheid movement, the academic and cultural boycott was a very important pillar of the resistance movement. Comincio con il ricordare che nella Sudafrica dell'apartheid il boicottaggio accademico è stato uno dei pilastri della resistenza popolare. In Israel's case, it's even far, far more important because the Israeli Academy, unlike the South African apartheid academy, is one of the main partners of the system of oppression. Nel caso di Israele, questo è di gran lunga più grave che in Sudafrica, perché nel caso di Israele le accademie, le istituzioni accademiche sono direttamente coinvolte nella repressione. Many of the weapons used in the massacre, Israeli massacre in Gaza, were developed by Technion University and Tel Aviv University. Molte delle armi che sono utilizzate in Israele sono costruite dalle università di Technion e di Tel Aviv. But more importantly than those deadly weapons are army doctrines. One of the main Israeli army doctrines used to justify the war on Gaza and the massacre in Gaza was developed at Tel Aviv University. Army doctrines? The main doctrine, I'll speak about one doctrine. Ok, allora, ma più ancora che, diciamo, la produzione di armi, è importante la produzione di dottrine che sono state prodotte all'università per la repressione. The doctrine I'm talking about is called the disproportionate force doctrine. La dottrina di cui parlo è la dottrina della forza sproporzionata. Tel Aviv University developed this doctrine, which basically says that because a regular army, like the Israeli army, a huge, very powerful army, cannot defeat an irregular force like Hezbollah or the Palestinian Resistance Movement, the most effective way to combat this irregular force is through massive destruction of the infrastructure and massive suffering of the civilian population, including killing civilians, in order to make life so difficult for the civilians, so they will stop the resistance. They will pressure the resistance to stop. la dottrina sviluppata della forza sproporzionata è la seguente. Dal momento che l'esercito israeliano regolare non può sconfiggere delle forze irregolari come Hezbollah, i resistenti palestinesi, deve procedere a infliggere le più pesanti distruzioni di massa e causare sofferenze alla popolazione, soprattutto popolazione civile, fino ad arrivare a ammazzare i civili, e questo in modo da creare pressioni sulla popolazione in modo che questa spinga i resistenti a smettere, prema per la fine della resistenza. Other than that, for 62 years, Israeli universities have been justifying ethnic cleansing and occupation, uprooting of Palestinians. In fact, some Israeli universities themselves are participating in this, not just justifying it. Inoltre, da 62 anni a questa parte, le università israeliane sono direttamente complici nella pulizia etnica e nello sradicamento dei palestinesi, e molti universitari israeliani non soltanto sono stati favorevoli, ma addirittura hanno attivamente in prima persona partecipato a queste operazioni di pulizia etnica. For example, Ariel College is built on occupied Palestinian territory near Nablus, so this college itself is a war crime, because moving a population from the occupying state to the occupied territory, according to the 4th Geneva Convention, is a war crime. So this college itself is a colony that violates the 4th Geneva Convention. Per esempio, il college di Ariel è costruito all'interno dei territori occupati nelle vicinanze di Nablus. Quindi il college esso stesso è un crimine di guerra, perché il college di Ariel è in violazione nei confronti della quarta convenzione di Ginevra che vieta lo spostamento di persone all'interno di The Hebrew University, territorio occupato. Sorry, the Hebrew University, Israel's most important university, is exactly participating in the same war crimes. One of its two campuses is built on occupied territory in East Jerusalem. Un altro esempio, l'Università Ebraica di Gerusalemme, anch'essa rappresenta un crimine di guerra in quanto uno dei suoi due campus è costruito all'interno della parte di Gerusalemme Est. Tel Aviv University is mostly built on an ethnically cleansed Palestinian village that was ethnically cleansed in 1948, called Sheikh Mwannes, and until now refuses to acknowledge this basic historic fact. Un altro esempio, l'università di Tel Aviv è stata costruita in una zona palestinese che è stata depopolata di palestinesi nel 1948, e ancora oggi la Università di Tel Aviv si rifiuta di riconoscere che il luogo dove essa oggi è costruita era di fatto un villaggio palestinese nel 48. In Haifa University, if a student needs a dormitory room, if you're Jewish, you get the room immediately. If you're not Jewish, you don't get the room. And I'll explain how they do this. Nell'università di Haifa, se uno studente ha bisogno di un posto per dormire dormitorio, diciamo, sì. Se chiede un posto per dormire, se sei un ebreo te lo danno, se invece non sei ebreo non te lo danno. Adesso vi spiego come funziona questa cosa. The way they do it, because Israel's apartheid is evolved. It's not primitive as the South African apartheid. So they do it in a very smart way. Vi spiego come la apartheid israeliana è più sviluppata, più raffinata, non è così primitiva come quella sudafricana. So they say if you have served in the army, you can get a dormitory room. If you do not serve in the army, you don't. But Palestinians do not serve and are not allowed to serve in the army, with very few exceptions. E la cosa funziona in questo modo. Loro dicono, se tu hai prestato servizio nell'esercito, puoi entrare nella foresteria. Se invece non hai prestato servizio nell'esercito, non puoi farlo. Ma i palestinesi non prestano servizio nell'esercito, se non per pochissime eccezioni. In one basic aspect, actually, Israeli apartheid is as primitive as its South African predecessor. That's land ownership. E c'è un aspetto in cui l'apartheid israeliana è primitiva, rozza nello stesso modo della apartheid africana, ed è riguardo al problema del possesso della terra. In a report on Israeli apartheid, very well done report, in The Guardian, the leading British newspaper, it said, Israeli governments reserve 93% of the land, 93%, often expropriated from Arabs without compensation, they reserve it for Jews, only for Jews, through state ownership, the Jewish National Fund, and the Israeli Lands Authority. Il governo israeliano ha riservato il 93% della terra, spesso espropriata dagli arabi senza ricompenso, per gli ebrei. Quindi ha riservato il 93% della terra agli ebrei attraverso le proprietà di Stato, la Jewish National Fund, il Fondo Nazionale Ebraico, e l'autorità israeliana per le terre. In comparison, in apartheid South Africa, 87% of the land was reserved for whites. Al confronto, nella situazione sudafricana, non il 93, ma l'87% della terra era riservata ai bianchi. Another very important aspect of Israeli apartheid is that if you're not Jewish, even if you're born in Israel, you're a citizen of Israel, if you're not Jewish, you can never be a national. Only a Jew is a national and a citizen. A non-Jew is a citizen, but not a national. And you have two different rights associated with nationals and non-nationals. E un altro aspetto è questo. Chi è ebreo ha la nazionalità. Chi non è ebreo, anche se è nato in Israele, non ha la nazionalità. È un cittadino, ma non ha la nazionalità. E c'è questa differenza tra essere semplici cittadini e avere essere di nazionalità ebraica, perché a queste due figure sono associati diversi diritti. So any Jewish Italian who decides to go to Palestine, to Israel, will immediately become a national of Israel, and my wife, who was born in Haifa, because she's not Jewish, will never become a national of Israel, because there's no Israeli nationality, there's only Jewish nationality. Israel does not recognize an Israeli nationality. Così, per esempio, un ebreo italiano che andasse in Israele potrebbe diventare una persona di nazionalità israeliana, mentre mia moglie, che è nata in Israele, a Haifa, non potrà mai diventare una persona con nazionalità israeliana, ebraica. E in Israele c'è la nazionalità ebraica, non la nazionalità israeliana. La nazionalità è ebraica. In all these situations, not to mention the wall, the checkpoints, the slow, gradual ethnic cleansing of Jerusalem, the Israeli Academy has remained completely silent, justifying and supporting ongoing occupation and apartheid. E in questa situazione, e per non parlare del muro, dei checkpoint, della pulizia etnica a Gerusalemme Est, bene, in tutto questo panorama l'Accademia israeliana è rimasta o silenziosa nei confronti di tutto ciò o addirittura ha apertamente sostenuto queste iniziative. And I'll end with this. Many in Italy think, okay, this is bad, but maybe the solution is not boycott. The solution is dialogue. Let's have peaceful groups, women, workers, youth, students, sit together, Palestinians, Israelis, with some Italian patron watching them, and bring them together and let's discuss peace. Però di fronte a questa situazione molti possono pensare ma perché il boicottaggio? Il boicottaggio non è la soluzione migliore, la soluzione migliore è il dialogo. E allora mettiamoci insieme donne, lavoratori, studenti, anche noi italiani, magari con qualche patron italiano che ci osserva e parliamo e puntiamo sul dialogo. This is what Palestinians call the peace industry. Our economy is ravaged, our economy is being destroyed, but the peace industry is growing very fast, thanks to your money. Questa è quella che i palestinesi chiamano l'industria della pace. La nostra industria palestinese è distrutta, è a terra, ma c'è questa fiorente industria della pace. Grazie al nostro grazie al nostro governo. I'm a dance choreographer, by the way, one of my hats. I'm a dance choreographer. If I want to get rich, the fastest way, I do a Romeo and Juliet with an Israeli partner and we get a lot of Italian money. I can get rich very fast. Dunque, io sono un coreografo di danza. Questo è uno dei miei cappelli, quindi se volessi veramente fare soldi basterebbe mettermi in contatto con qualche associazione israeliana e fare soldi in questo modo. And I'll end with this. In The Hague, in the Netherlands, last year, I gave a lecture about boycott and why it is so important, why Palestinian civil society is completely calling for BDS. And a Dutch elected official stands up and says, but why boycott? Why not just Palestinians and Israelis hugging each other, embracing? E quando ero l'anno scorso in Olanda a parlare del boicottaggio, disinvestimenti, funzioni e sanzioni, un uomo politico olandese ha detto: ma perché boicottaggio? Ma perché non ci mettiamo tutti ad abbracciarci insieme? So my answer was, if a master and a slave are hugging, this is rape, this is not love. E la mia risposta è stata questa: se un padrone e uno schiavo sono abbracciati, questo è perché è in atto una violenza carnale, non perché sia un gesto di amore. So the BDS movement wants to end slavery. And therefore it focuses on three basic rights. Il movimento di boicottaggio, di disinvestimento e sanzioni ha come scopo la fine della schiavitù e quindi pone alcuni obiettivi. Ending the occupation and colonization of the 1967 occupied territory, including the wall, of course. Finire con porre fine all'occupazione che ha avuto luogo dopo il 48, inclusa la colonizzazione. Second, ending the institutionalized, legalized system of racial discrimination inside Israel, which is a form of apartheid, according to the UN convention on apartheid. Secondo obiettivo, porre fine alle discriminazioni razziali, alle discriminazioni dell'apartheid di Israele all'interno dello Stato di Israele, che violano le risoluzioni dell'ONU. The third and most importantly is the right of return for Palestinian refugees to their lands and homes of origin in accordance with UN Resolution 194. E terzo punto, e forse il più importante, di rispettare il diritto al ritorno dei profughi palestinesi nella loro terra, così come sancito dalla risoluzione delle Nazioni Unite 194. So we're asking you to support our movement. It's a non-violent, peaceful movement that hopes to transform an oppression situation to a situation of freedom, justice and equal rights for all. Thank you. E quindi penso che abbiate capito, comunque finisco l'ultima frase, dice quindi vi chiedo di sostenere il nostro movimento, è un movimento non violento, pacifico, che si pone come obiettivo quello di passare da uno stato di oppressione a uno stato di rispetto dei diritti e di giustizia. Grazie anche a tutti. She has a question. Yeah. Shall we take three questions? Sì. She has a question about the so-called peace industry. You know, say that the peace industry is sometimes supported by the government. Are you referring to the, for example, Italian government supporting it, or even the Palestinian authorities supporting it? The peace industry. Okay. The question was about the peace industry and who supports it. The peace industry is mainly funded by the European Union, by civil society groups in Europe and by the United States. La cosiddetta industria della pace è sostenuta soprattutto dall'Unione Europea, dalle associazioni civili e dagli Stati Uniti. One example is the so-called Paris Center for Peace. Paris Center for Peace. In Italy this is very popular. You go to little villages in Tuscany and they're supporting the so-called Paris Center for Peace, but this is a center for apartheid. This is not a center for peace. This is a center for deception, for giving the wrong impression that we can coexist despite occupation and apartheid. Per esempio, una delle associazioni di questa industria per la pace è il Centro Peres per la Pace. Anche se si va in piccoli paesi italiani, si incontrano magari delle sedi di questo Centro Peres. Ma questo in effetti non è un centro per la pace, è un centro che sostiene l'apartheid, perché è un centro che crea un inganno, cioè l'inganno che consiste nel credere che ci possa essere coesistenza malgrado l'occupazione. And I'll give one very difficult example. The Paris Center for Peace gets a lot of Italian money to treat Palestinian children who have heart problems that cannot be treated in Palestinian hospitals. E un altro esempio, lo stesso centro Peres per la pace riceve un sacco di soldi anche dall'Italia per assistere i bambini palestinesi che sono affetti da malattie cardiache. So what's wrong with this? They're doing something humanitarian, something good for the Palestinians, one can say. E che cosa c'è di male in questo? Uno potrebbe dire, beh, in fondo non stanno facendo altro che fornire un aiuto umanitario ai palestinesi, stanno facendo del bene ai bambini palestinesi. What's wrong with this? First is that most of the money is going to them, to the Israeli side, not to the Palestinians. Second, it entrenches, it sustains the system of colonization, where our hospitals remain underdeveloped and all the money goes to benefit Israeli hospitals. Cosa c'è di male? E ci sono due cose. Primo che i soldi vanno a Israele, non ai palestinesi. E in secondo luogo che questo sistema di cose perpetua lo stato di inferiorità degli ospedali della sanità palestinese. So the best way for the time being is helping Palestinians end the occupation first so that we can develop our health system. And second, in the meanwhile, bringing those children to Italy, to Milano, to be treated is even cheaper than giving the Paris Center for Peace millions and millions to treat them. Quindi la cosa giusta da fare è aiutare direttamente gli ospedali palestinesi, non aiutare attraverso Israele, e sarebbe ancora meglio che i bambini palestinesi venissero curati direttamente in Italia. Questo sarebbe più economico, costerebbe meno che spendere milioni per aiutare questi bambini in Israele. Another very important example of the peace industry is the women peace industry. Un altro importante esempio dell'industria della pace è l'industria della pace riferita alle donne. There's this myth that women share a lot more as women in the feminist movements that they should ignore the actual reality of occupation and apartheid. So they should discuss the male enemy, but not the real enemy on the ground that is oppressing Palestinian women, the Israeli occupation. C'è questo mito secondo cui nel campo delle donne le donne dovrebbero occuparsi del maschio che opprime e non tanto della vera presenza dell'occupazione. Altre domande? Sì, volevo dire che il centro Perez in Italia investe a 16 cifre, perché come centro Perez forse non è conosciuto, ma l'initiative of the Perez non niente, si chiama Saving Children ed è l'operazione che non c'entra niente con Saving Children. Ma si chiama Saving the Children l'operazione, e non ha nulla a che fare con Save the Children. Saving Children è il centro per la città. Sono due cose diverse da Save the Children. Non è importante, perché se no Save the Children puoi comprare la droga, non c'è mai niente. Well, the difference is one of them really wants to save the children, the other one wants to save Israel's occupation. La differenza sta nel fatto che una delle due associazioni vuole veramente salvare i bambini e l'altra vuole invece salvare l'occupazione israeliana. C'è una domanda? She has a question about nationality. She is asking if she, who is not Jewish, goes to Israel, can she have the Israeli nationality? No. No, never. You're not Jewish, period. That's it. No. You have to be Jewish. No, non è possibile. Se tu non sei ebrea, non puoi avere la nazionalità ebraica se vai in Israele. Non è possibile. So if you get married to an Israeli, let's say, maybe you can get citizenship. It's very, very difficult, but you can. but you will never ever become a national. So you never can own land on 93% of the land of Israel. Sara, scusa, traduco. Dice, no, non è possibile. Se tu magari sposi un israeliano ebreo, allora potrai magari avere la cittadinanza, ma mai potresti avere, potresti essere nazionale, mai potresti avere la nazionalità ebraica, cioè non potresti godere dei privilegi di quel 93% di terra destinata agli ebrei. So even following this hypothetical situation, you get married to an Israeli, you go to the army, you serve in the army, in the occupation army, and you die, you don't get buried in the same military cemetery, because that's only for Jews. E così, per andare avanti in questo ipotetico esempio, se tu sposi un cittadino israeliano, presti servizio nell'esercito di occupazione e muori sotto mentre presti servizio militare, tu non puoi essere seppellita nel cimitero riservato ai soldati ebrei. Scusa, posso aggiungere una cosa rispetto a questo. In Israele c'è una legge sull'immigrazione, perché ci sono molti lavoratori immigrati dall'India e così via, che è identica a vostri figli, tutti i suoi aspetti, solo in un aspetto, che in quella legge non esiste l'acquisizione da parte degli immigrati della città, della nazionalità. Mentre da noi, dopo 6 anni, si può diventare la cittadinanza, in Israele questa cosa nella legge sull'immigrazione non esiste. While in Italy we have a similar law, but with the possibility for foreigners to get Italian nationality. Yeah. And one last issue that some may not know of is the marriage law. There's a marriage law that passed in Israel. E un altro aspetto che forse non tutti conoscono è la questione del matrimonio che si può fare in Israele. And sorry if it reminds you of the 1930s in Europe, but this is the reality we're facing in Israel. E mi spiace se faccio una menzione alla situazione degli anni 30 in Europa, ma è quello che succede in Israele. An Israeli citizen who marries a Palestinian from the occupied territories is not allowed to bring his or her spouse to live with them in Israel. So they can marry, but one lives in the West Bank, one lives in Israel. They can't meet. They can't live. The Israeli cannot move to the West Bank, it's illegal. The Palestinian cannot move to Israel, it's illegal. Un uomo o una donna israeliana che sposasse un palestinese o una palestinese lo può fare, però non possono poi ricongiungersi, nel senso che è illegale per l'israeliano della coppia andare nei territori palestinesi o viceversa, quindi è illegale riunirsi. So love is not allowed across the borders. E dunque l'amore non è permesso attraverso il muro, attraverso il confine. La seconda parte poi. Sì. Volevo sapere che risposta c'è stata finora a livello internazionale e italiano di fronte a questa campagna di boicottaggio accademico. Which was the answer to this BDS campaign in Italy and the world? The most important support we received for the academic and cultural boycott was from Britain and South Africa. Il sostegno più corposo che abbiamo avuto per questa iniziativa di boicottaggio di investimenti, disinvestimenti e sanzioni è stata da parte della Gran Bretagna e dell'Africa del Sudafrica. Accademico, sì. The British Academic Union, which represents about 120,000 academics, every year in their conference come up with a resolution, with a motion that supports boycott in an indirect way sometimes, but they always come out and support boycott. Per esempio, l'Accademia Britannica ogni anno nei suoi rapporti cita, magari tra le righe, ma cita, sostiene il problema del boicottaggio accademico. Academic boycott is the most difficult part of BDS. We understand that. Il boicottaggio accademico è la parte più problematica, più difficile del BDS. But it is extremely needed because the Israeli Academy is such a huge partner in Israel's apartheid and occupation. ma è veramente necessario, perché l'Accademia israeliana è così profondamente coinvolta nel sistema di apartheid e di oppressione. Another form of student and faculty activism is divestment, not just academic boycott, divestment. Un altro aspetto della campagna è quello non tanto del boicottaggio accademico, ma del disinvestimento. I was talking to Roberto yesterday about the trade union movement as well. Divestment is extremely important. What we mean by divestment is withdrawing your investments from companies that benefit from the occupation and apartheid. Israeli companies, Italian companies, international companies, you're not discriminating. Anyone who profits from occupation, we withdraw our investments from them. Ne parlavo anche con Roberto per quanto riguarda il problema dei sindacati. Disinvestimento significa ritirare i propri investimenti come singoli, come compagnie, ritirare gli investimenti, toglierli a tutte quelle a quei movimenti che traggono beneficio dalla occupazione e dall'apartheid, a qualunque livello, chiunque esso sia. We have so many success stories, but we don't have much time. So I'll just give a couple of success stories we've had. Non ho molto tempo, ma vi cito soltanto alcuni esempi di storie che hanno avuto successo. In Hampshire College, in the US, last year, it was the first college in the West to divest from 6 companies profiting from the Israeli occupation. And this started with a small student movement that managed to convince the majority of faculty and the majority of students. Un solo esempio, quello del collegio di Hampshire negli Stati Uniti, l'anno scorso fu il primo a avere successo in un'operazione di boicottaggio, di disinvestimento, che colpì 6 compagnie, e questa operazione di disinvestimento fu promossa da un piccolo gruppo studentesco, da un piccolo movimento di studenti dell'università. Dell'università, sì. It started with 3 students, 2 Israeli men and 1 Palestinian woman, students. È partita questa operazione da 3 studenti, 2 uomini, 2 israeliani e una palestinese. And this has spread across the US. Now we have tens of universities in the US that are in the process of pushing for divestment resolutions, either at the student union level or the board of trustees, that university official level. E questa situazione si è propagata negli Stati Uniti e adesso abbiamo decine di università che negli Stati Uniti sono coinvolte in questa operazione, o a livello di movimento di studenti o a livello di strutture dell'università. Sussex University in England, the students, huge majority, voted in the student union to boycott Israeli products. So Sussex University is the first university in the West that is completely free of Israeli products. L'università del Sussex in Inghilterra è la prima università che a maggioranza ha deliberato per il disinvestimento, è la prima università dell'Occidente che attualmente è del tutto priva di prodotti israeliani. Now we have active academic boycott campaigns, not just in Italy, in France, in Spain, as I said, in the UK, in Ireland, in the US, in Canada, South Africa and Australia. E attualmente abbiamo questa campagna in Francia, in Spagna, come ho già detto, nel Regno Unito, in Irlanda, negli Stati Uniti, in Canada, nel Sudafrica e in Australia. One immediate result of this spreading academic and cultural boycott is that many academics and artists are no longer going to Israel, whether they say so, whether they admit it's because of the boycott or not. And I'll give some examples. E una delle conseguenze di questo boicottaggio che si sviluppa è che sia degli accademici che degli artisti di fatto si rifiutano di andare negli Stati Uniti, scusate, di andare in Israele. lapsus. Freudian slip. Da molto freudiano, sì, sì. I wish we could do that, but we can't. Ci piacerebbe fare anche quello, ma non possiamo. Scusate. Allora, si rifiutano di andare in Israele, sia che lo dicano esplicitamente, sia che non lo dicano. So, Bono, Carlos Santana, Björk, there's Snoop Dogg, there's so many, many examples of artists, Jean-Luc Godard, the French, Ken Loach, many, many writers, actors, filmmakers, Alice Walker, the famous American feminist, Judith Butler, the American philosopher, Naomi Klein, and there's so many, John Berger, many, many, many intellectuals, artists, cultural figures are joining the movement, Arundhati Roy, and they're no longer going to Israel. They're boycotting Israeli festivals, they're boycotting Israeli conferences. Many of them, well, it's changing, but many of them still, like Bono and Santana, they don't say, we're boycotting. Oh, we're busy, our schedule doesn't work, my cat is sick, whatever. E ci sono tanti personaggi che di fatto boicottano, come Bono, Santana, Björk, Jean-Luc Godard, il regista francese, Ken Loach, Walker, Butler, il filosofo, Naomi Klein, John Berger, Arundhati Roy. Questi personaggi boicottano, cioè non vanno di fatto nei festival dove sono invitati in Israele. Magari non dicono esattamente che non ci vanno per boicottaggio. Per esempio Bono e Santana non hanno detto esplicitamente non andiamo per boicottare. Magari dicono no, non ci andiamo perché siamo occupati, perché abbiamo problemi, perché il gatto sta male. Però di fatto non ci vanno. Posso aggiungere solo aggiungere una sola cosa? Del successo del boicottaggio. Abbiamo parlato del College Ariel. In Spagna c'è stato un concorso per un progetto sulle energie rinnovabili, soprattutto quella solare, e doveva questo College Ariel voleva partecipare, se non che la pressione in Spagna contro la College Ariel è stata tale che è stata rifiutata la partecipazione del College Ariel a questo concorso. Volevo fare solo una riflessione. In Italia la campagna di boicottaggio sono complicate per vari motivi. Il primo è che in Italia non c'è una tradizione di boicottaggio. In Italia l'unica campagna di boicottaggio che ha funzionato in qualche modo è stata quella con Sparta Strette. Ci sono però degli esperimenti. Io credo che bisogna farla questa campagna di boicottaggio, però è difficile la comunicazione e difficile l'organizzazione. Lo stesso vale per la campagna di disinvestimenti, perché in altri paesi è più chiaro quali sono i canali di investimento. In Italia sono nascosti. In Italia, le università, In Italia, le università, bene che vada, si sa che investono in fondi di investimento, non si sa dove arrivano questi soldi. In realtà, quindi, questi fondi di investimento sono israeliani. In which the universities invest in so-called investment funds, but it do not suck it, whether they go to Israel or not. Quindi la conclusione è, l'altro passaggio invece, sulla questione dei nostri soldi, molte istituzioni italiane collaborano a progetti di ricerca molto nascosti che favoriscono alcune di queste ricerche. Adesso Carlo parlava di alcuni progetti sulle nanotecnologie. Provincia di Milano ha un progetto di ricerca comune col Matimo, che è un istituto di ricerca israeliano governativo, che lavora sulle nanotecnologie. Naturalmente qua in Italia lo fanno passare come ricerca sulle biotecnologie, eccetera. In realtà c'è dentro le biotecnologie che sono una parte del regime di apartheid, ma poi c'è tutta l'altra ricerca che ha a che fare con l'Italia. So our collaborations with the Israeli universities are sometimes hybrid. So we know that we invest money in research, but we don't know exactly where this girl. Scusate, for example, the Milan province is involved in a collaboration project with Israel about nanotechnologies. Mm-hmm. And of course, we don't know the use of these nanotechnologies. La mia conclusione è solo che la campagna di boicottaggio implica un grosso lavoro di ricerca per poter comunicare quali sono le effettive dimensioni del fenomeno, della collaborazione del nostro governo, delle nostre istituzioni, delle nostre imprese al regime di apartheid, perché è su quello che bisogna lavorare, soprattutto. Di per sé la campagna di boicottaggio dicevano compriamo i prodotti L'Oreal, va bene, ma è insufficiente se non capiamo che la responsabilità e la complicità italiana nel regime di apartheid è ben alta, ed è su quello su cui secondo me il lavoro di ricerca e di comunicazione andrebbe. So you still have to make a work of research here in terms yes. of the mechanisms of collaboration with you understand the yeah. Israeli repression. And so boycotting just an Israeli product is just a very low level of boycotting. Mm-hmm. We need to make this deeper study. Mm-hmm. Yes, I agree fully. But that's the case everywhere. I know Italians think that Italy is the most complicated country on earth. It's not. There's so many countries like yours and even worse. Io capisco questo, però magari voi avete la percezione che questi problemi ci siano in Italia perché l'Italia è il paese più difficile al mondo, però questi problemi ci sono un poco dovunque. Pension funds everywhere are difficult to know exactly where they invest, but good research always gives you results. Cioè, è sempre difficile capire dove uno investe, ma una buona ricerca aiuta a trovare una risposta a questa domanda. Some good, committed and very smart students in the US, in Canada, in Britain, in France managed to research exactly to know where the pension funds are investing and to start divestment campaigns against them. Degli studenti negli Stati Uniti, in Francia, persone molto serie, qualificate, impegnate, fanno una ricerca e capiscono dove vanno a finire questi, ad esempio, fondi pensione, gli investimenti, e quali sono i percorsi di questi soldi. I'll just give three examples. In Norway and Sweden, our campaign, BDS campaign, our partners in Norway and Sweden, managed to convince the government to withdraw their investments from the pension funds, national pension fund, and Norway is not Italy. Norway has a huge pension fund, $300 billion. They divested from Elbit Systems because it's manufacturing weapons that are used illegally. Per esempio, in Norvegia e in Svezia hanno preso la decisione di disinvestire dai fondi pensione per delle quote enormi, $300 milioni, perché hanno visto che erano collegate alla Elbit, che è l'industria militare. In the Netherlands, one woman who is a veteran anti-apartheid activist from the South Africa days started a campaign to convince a bank, one of the largest banks in the Netherlands, to divest from an Israeli company involved in the settlements. In Olanda, una donna, una veterana della campagna anti-apartheid nel Sudafrica, ma una singola donna è riuscita a convincere una banca a disinvestire da industrie israeliane legate alla repressione. After one year and a lot of good research and a lot of campaigning, she managed to convince the bank to divest from Veolia, the French company that's building the Jerusalem Light Rail connecting colonies with the city of Jerusalem. Così dopo un anno di ricerche, questa donna è riuscita a convincere la banca olandese di ritirare, di disinvestire i soldi dalla compagnia francese che si sta occupando della costruzione dei mezzi di collegamento, delle ferrovie, delle tranvie in Palestina, Gerusalemme. What is different about Italy and Germany and the Netherlands is the Holocaust. This is the most important issue, and France, of course. And this is the issue that we always have to confront because we're not scared of confronting it. Quello che in realtà c'è di diverso per quanto riguarda l'Italia, la Francia, la Germania è l'Olocausto. E noi non abbiamo paura di confrontarci con la questione dell'Olocausto. Your guilt about the Shoah does not, cannot justify supporting an ongoing Nakba for the Palestinians. La vostra colpa nei confronti della Shoah non può essere considerata come una scusa per continuare a difendere la pulizia etnica che si sta ancora effettuando, che è ancora adesso in atto. We played no role in the Holocaust. We bear absolutely no responsibility for the Holocaust. You did the Holocaust in Europe. Why should we pay for your crimes? Noi non abbiamo avuto nessun ruolo nell'Olocausto. Noi non abbiamo avuto nessuna responsabilità nell'Olocausto. Siete stati voi europei che l'avete fatto. Perché noi dovremmo pagare le conseguenze di questo? The best way to end the results of the Holocaust and to really compensate humanity, including Jews, for the Holocaust is to end all injustice and insist on freedom and equal rights for all human beings. Insist to fight racism, no matter who's doing it. Il miglior modo per ricompensare dall'Olocausto l'umanità, per ricompensare anche gli stessi ebrei, è di porre fine all'ingiustizia e di portare alla libertà, al rispetto dei diritti di ciascuno. The BDS movement is an anti-racist movement. We're opposed to all forms of racism, including anti-Semitism, Islamophobia, and so on. It's based on humanitarian international law and human rights, so we reject every form of racism. Il movimento BDS è un movimento antirazzista, in particolare rifiuta qualunque forma di antisemitismo e di islamofobia. E è un movimento che ha come scopo il raggiungimento dei diritti civili umani per tutti. Io volevo solo sapere se a lato del boicottaggio che era anche una campagna per incentivare le università palestinesi o comunque l'educazione in Palestina, qual era, se c'è il rapporto con le università internazionali rispetto a questo, qual è la situazione dell'università palestinese oggi? Beside the problem, she's asking to what extent there are ways to support the Palestinian universities and what is the state of the Palestinian universities at the moment? A very good question. Un'ottima domanda. It's very important to continue supporting Palestinian universities because under occupation it is very difficult to develop the education system. È una bella domanda perché è molto importante aiutare le università palestinesi perché per esse è difficile progredire in uno stato di occupazione. One example, as I said before, instead of investing millions of euros from Italian tax money into the Paris Center for Apartheid, it's better to invest in developing research at Palestinian universities so that we will have more advanced medical education and so on. Per esempio, anziché investire milioni, come avevo detto, milioni prese dalle tasse degli italiani per aiutare il centro Perez, sarebbe meglio devolvere questi soldi alle università palestinesi in modo da poter aiutare lo sviluppo della ricerca medica e così via. So research support, faculty exchange is also very important, but the problem is, because of the occupation, as many of you know, it is nearly impossible. Italian professors who try to go to Al-Najah or Bir Zeit or Bethlehem University often face the problem that Israel does not allow them. Quindi aiutare la ricerca, sostenere lo scambio di docenti, di studenti è un'ottima cosa, ma sappiamo che questo a volte è impossibile perché l'occupazione rende queste operazioni quasi impossibili. Ad esempio, gli italiani universitari che vogliono andare nelle università palestinesi, di Bir Zeit, Al-Najah, eccetera, molto spesso si trovano di fronte al diniego da parte degli israeliani. So in fact, Israel is imposing a boycott on Palestinian universities. They just don't call it that, but it's a real, true boycott. Palestinian professors from the US and Europe who try to go back to Palestine to teach are not allowed. Così di fatto è Israele che sta imponendo un boicottaggio accademico sulle università palestinesi. E gli accademici palestinesi che vivono al di fuori della Palestina, negli Stati Uniti, eccetera, che volessero tornare nella Palestina a insegnare, a volte non sono ammessi, non hanno l'autorizzazione a farlo. So the most effective way to help Palestinian education, to help Palestinians achieve our right to education, is BDS. Così il modo più effettivo, più efficace di aiutare le università palestinesi è di aiutarli attraverso il BDS. Volevo fare una cosa aggiunta a questo. Cioè, questa iniziativa tour è stato organizzato soprattutto dal gruppo di sostegno alle università palestinesi che fa riferimento all'appello di Danilo Zolo, e appunto questo tour vuole iniziare questo discorso di sostegno alle università palestinesi. Io sono molto colpevole perché non c'ho in questo momento l'indirizzo, l'ho perso, stavo cercando l'indirizzo del sito dove voi potete trovare sia l'appello, sia le iniziative che si stanno facendo a Firenze e a Siena. Sono state raccolte delle email, diciamo così, una lista di email tra le persone che vogliono continuare a fare a prendere, ripeto, questo problema e a misurarsi con il problema di iniziare discorso del boicottaggio. Se tra di voi qualcuno vuole fare questa cosa e prendere l'iniziativa di mettere insieme le email e organizzarsi, e poi o magari fare riferimento a Piero o a Roberto per trovare questo, oppure digitate su Google la cosa del diritto, mi pare che si chiama diritto studio Palestina senza le tre www e wordpress.com, se non sbaglio. Sì, grazie. Diritto studio Palestina punto wordpress.com. Ecco, questo là. Ci sono due domande. Volevo sapere cosa pensa della recente dichiarazione della palestinese ufficiale di sostegno alla campagna di boicottaggio dei prodotti israeliani tenuti nelle colonie, e se crede che sarebbe possibile ed efficace un boicottaggio di questi prodotti anche da parte della popolazione palestinese. The sustain of the national authorities, Palestinian authorities, to do boycotting campaign for goods coming from the settlements, and if you think that it's possible, if that is possible, against these products from the Palestinians themselves. Yes, the Palestinian Authority has adopted the boycott, even though partially, just the colonies' products, after civil society. There was a consensus for BDS. They felt pressured, so they had to adopt it. Sì, la autorità palestinese ha adottato questa delibera di boicottaggio contro le merci, anche se in modo ristretto, cioè le merci che provengono dalle colonie, ed è stata forzata a farla perché c'è stato un movimento popolare di base sostegno al boicottaggio contro le merci dalle colonie. And it is a very important boycott because Israel sells to Palestinians in the occupied territories from the colonies only about $500 million worth of products every year. Ed è un boicottaggio molto importante perché Israele vende alla Palestina merci provenienti dalle colonie per un ammontare di 500 milioni di dollari all'anno. Because we're a captive economy, because we're under occupation, and because Israel has systematically destroyed Palestinian agriculture, Palestinian industry, due to the siege and the colonies and the war, Palestinians in many cases have no option but to buy Israeli products, unlike in Italy and the rest of the world where it's a moral choice. E dal momento che la economia della Palestina è disastrata per effetto dell'occupazione, perché è un'economia di occupazione, la nostra economia è stata distrutta, è distrutta dall'occupazione, per i palestinesi non ci sono altre scelte per comprare altri prodotti se non quelli israeliani. Cioè per voi ci sono altre scelte, ma per noi non ci sono opzioni. Dobbiamo comprare quelle israeliane. But Palestinian civil society, as represented in the BDS National Committee, which is a huge coalition of civil society groups, is not calling for a selective boycott. It's calling for a full boycott. And I'll explain why. There are two reasons, moral and pragmatic. Ma il BDS, che fa parte del movimento dei palestinesi, sceglie e propone non tanto il boicottaggio selettivo, quanto un boicottaggio completo. E adesso vi spiego per quale motivo. There are two reasons. Per due motivi. One moral and one pragmatic. The moral reason is that in any case where you have human rights violations, where you have violations of international law, states are the responsible parties according to international law. So if you have a country occupying another, a country occupying a people, it's the state that is responsible. Sono a favore di boicottaggi totali, non selettivi, per due motivi. Uno morale e l'altro pragmatico. Per quanto riguarda il motivo morale, in ogni caso il diritto internazionale dice che in caso di violazione dei diritti umani sono gli stati ad essere responsabili, gli stati in quanto tali a norma del diritto internazionale. So those calling for the boycott of China over the occupation of Tibet, for example, do not call for boycotting Chinese products made in Tibet. So, così per esempio, quando si parla del boicottaggio nei confronti della Cina per l'occupazione del Tibet, non è che si parla di boicottare i prodotti fatti dalla Cina all'interno del Tibet. Those calling for divestment from Sudan do not call for divesting only from companies, Sudanese companies in Darfur, for example. E così quando si parla di disinvestimenti dal Sudan, non si parla soltanto di disinvestimenti per quanto riguarda le compagnie che stanno nel Sudan all'interno della regione del Darfur. Why is Israel an exception? Why are there always double standards when it comes to Israel? Perché Israele deve essere un'eccezione? Perché ci sono sempre questi doppi criteri, due pesi, due misure? Quando si tratta di Israele. It is not the colonies that are responsible for the war crimes. It is the state of Israel that built the colonies. So it makes absolutely no sense morally to punish the colonies while not saying anything about the state of Israel that established them. Non sono le colonie in quanto tali che sono responsabili dell'occupazione, è lo Stato di Israele che ha prodotto le colonie. Quindi perché punire le colonie che sono state messe lì dallo Stato di Israele per fare l'occupazione? So even if you're just opposed to Israel's occupation, even if you don't care about apartheid, right of return, just the occupation, you should boycott Israel, because Israel is responsible for the occupation. Così se voi siete contrari all'occupazione in Israele, e lasciamo stare il problema dell'apartheid, eccetera, in ogni caso dovreste boicottare tutto Israele in quanto tale, come Stato. This is at a moral / legal level. At a pragmatic level, Israel has made it nearly impossible to distinguish between products made in the colonies and products made in Israel. Because of the labeling, they label everything made in Israel. It's the same barcode, 729. So you cannot distinguish, even if you want to. It is so difficult to know what's coming from colonies, what's coming from non-colonies. E fino adesso ho parlato dell'aspetto morale, ma c'è anche un secondo aspetto che è quello pragmatico. È di fatto praticamente impossibile distinguere i prodotti che vengono da Israele dai prodotti che vengono dalle colonie, perché entrambi i tipi di prodotti sono etichettati con lo stesso codice a barre su cui c'è scritto 729, però di fatto è impossibile distinguere la provenienza dallo Stato di Israele o dalle colonie. So the main issue here is that even if you want to boycott settlement products, you need to boycott Israeli products. And Israel bears responsibility because it removed the distinction. Quindi, di fatto, se volete boicottare i prodotti che arrivano dalle colonie, dovete di fatto boicottare i prodotti che arrivano da Israele, perché è Israele che è responsabile dell'impossibilità di distinguere i prodotti che vengono dalle colonie. Some people, even in the solidarity movement in Italy, are saying, no, if we boycott Israel completely, then we're supporting a one-state solution. And so that we want to boycott only settlements because we support a two-state solution. This is completely false. This is a totally false argument, and I'll explain why. Un'argomentazione di chi è contrario a questo tipo di boicottaggio è che sono contrari a questo boicottaggio perché in questo modo si viene a sostenere una soluzione a uno Stato mentre vogliono una soluzione a due Stati. Ma questa è un'argomentazione sbagliata e vi spiego perché. The BDS movement takes no position on one state, two state. Each one of us does, but in the movement, it's a consensus movement. From the right to the left, everyone is in the BDS movement. We have no position on what the solution should look like. We are a rights-based campaign. It's based on Palestinian rights under international law that every Palestinian agrees on. Movimento BDS in quanto tale non prende nessuna posizione sulla questione uno Stato o due Stati. Naturalmente ciascuno di noi come membro del movimento ha le sue idee, ma il movimento in quanto tale non ha nessuna posizione perché è soltanto basato sul problema della difesa dei diritti, sui diritti dei palestinesi. And we think solidarity movements should not concern themselves with what the solution should look like. It's not up to them to impose anything on us. It's up to Palestinians, under the right to self-determination, to determine what we want in the future. E il movimento di solidarietà internazionale non deve occuparsi di questa questione, uno Stato, due Stati. Non sta al movimento di solidarietà occuparsene, perché la questione deve essere decisa dai palestinesi. Siamo noi palestinesi che dobbiamo decidere se fare uno Stato o due Stati. This is what the power of BDS is. It focuses on international law and human rights. And we think that solidarity movements should focus on the three basic rights, not on solutions. E questa è la forza del movimento BDS. La forza consiste nell'essere focalizzato sui principi fondamentali dei diritti che ho detto. And I'll just end with this one line. It's very important. A very important principle in the BDS movement is context sensitivity, which means that activists in any country know their circumstances, their conditions best. They know best what to target, how to target it, and so on in the BDS movement. So we don't, in Palestine, impose on Italian BDS partners what they should do to implement BDS. They know better. We don't know. What's best to do in Italy? To boycott Agrexco Carmel, or to boycott Veolia, or to divest from this Italian company that sells weapons to Israel? Italian activists know best, and we trust our partners. Un principio importante del nostro movimento BDS è la sensibilità al contesto, vale a dire, sono coloro che appartengono ai movimenti locali che sanno meglio quali sono gli obiettivi da avere. Per esempio, se boicottare Agresco oppure un'altra compagnia. Cioè, sono le persone che lavorano localmente nei paesi che sanno cos'è meglio in quella situazione particolare, in quel paese, in quel contesto fare. E noi abbiamo fiducia in loro. So if you decide, if FIOM, let's say the trade union, decides they want to just focus their BDS campaign on Motorola, just Motorola, because they want to succeed in one central campaign, that's perfect for us. They know best. What we need is victories that are sustainable, that are gradual, until we reach our goal of ending injustice. So you know best how to sustain victories and how to achieve victories. Così, per fare un esempio, se un domani la FIOM dovesse decidere di concentrarsi con un boicottaggio soltanto su Motorola, benissimo, questa è un'ottima scelta, sono loro che sanno esattamente qual è la cosa migliore da fare, non siamo noi che glielo diciamo, e sono loro che sanno qual è la strategia migliore per raggiungere la vittoria. Motorola was not a hypothetical example, by the way. It's a very real target for BDS across the world, especially in the US, because of its direct involvement with the Israeli army, with the occupation, with the settlements. A proposito, l'esempio di Motorola non è un esempio ipotetico, perché la Motorola è pesantemente coinvolta nella complicità con l'esercito israeliano per l'occupazione. Plus, their mobile phones stink, so I suggest buying an alternative. Their mobile phones are really bad. The what? Mobile phones, the cellular, yes. Motorola makes are really bad anyway. Dice che comunque in ogni caso i prodotti Motorola fanno veramente schifo in ogni caso. And I'm a telecommunications engineer, I know of it. This is a translation. Sul sito che c'è qui, trovate i nomi, sono tre accademici che hanno firmato, oltre a altre persone, insegnanti delle scuole, studenti e altro. Però accademici ce ne sono tre. Come posso prendere i nomi? Va bene. Ci sono altre domande? No. Just remind them about the book. Okay. Well, just to end. If you did not get your copy of the book, I suggest you get one. It's very cheap, 8 euros, and it's really worth it. Suggerisce di comprare il libro, è molto buon mercato, 8 euro. I forget to ask the woman. I think she did not know it was for money. Woman. Did not know that it's for sale. She took a copy. I don't think she paid. No, she paid. Okay. Because I saw her. Un goccio. Very good. We must translate after this. That's fair. I suggested to the. It's a really good book. The introduction alone, 3 pages, is so powerful. Well, he was very, very clever. The translator was very clever. Yeah, sounded well. That's good. You never forget. Yes. He took notes very well. Yeah. Oggi parla a Pisa, c'è un